Vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono taxista a Milano, adesso tu mi devi dire a che ora esci dall'ufficio in via Monterosa, io ti devo venire a prendere perché ti devo annusare, voglio vedere se davvero puzzi. Certo che ce l'avete così tanto con gli animalisti, ma alla fine ci sono cani che si lavano più spesso di Cruciani. Mamma mia ragazzi, che casino a Roma, Berlusconi scatenato contro l'universo mondo, appena ha saputo della candidatura della Meloni a sindaco questa mattina, ne ha dette di tutti i colori, sentiamo. Quindi nessun arretramento sulla candidatura di Guido Bertolaso? Ma assolutamente, abbiamo messo dei mesi per convincere il dottor Bertolaso a mettere da parte i programmi che aveva, peraltro insieme a me, di costruzione di ospedale per bambini nei paesi poveri e di dedicarsi alla sua città che è la nostra capitale. I leghisti a Roma sono tutti ex fascisti. I leghisti di Roma sono tutti ex fascisti, quindi hanno vecchie liti tra di loro che sbocciano tutti i giorni. Le donne, questo rivolto alla Meloni, fanno sempre quello che vogliono. Beh, in generale quasi tutti in realtà, dovrebbe essere così. Io la ascolterò, certamente sentirò cosa mi vuole dire, ma non ho molte speranze perché tanto sono vecchio, ho esperienza e so bene che il tempo e le donne, qualunque cosa gli dici, fanno sempre quello che vogliono loro. Mamma mia ragazzi, capito Parenzo, lo vogliono fregare. Tutti con Berlusconi, da oggi la zanzara è al fianco di Silvio Berlusconi in questa battaglia antifascista. Ma come antifascista? Che c'entra antifascista? Contro il rischio del ritorno dei fascisti nella città, Roma, città aperta, siamo tutti con Bertolaso. Guido, avanti tutta, siamo con te, la zanzara. Ma è con non te dire cazzate, ma sostenere, ma questa candidatura straordinaria. Ma non ho capito, adesso è un pericolo la candidatura dell'ex fascista Meloni, dell'ex... Io sono d'accordo con Berlusconi, a Roma... Tu appena senti la parola fascista ti agiti, A Roma i leghisti sono tutti ex fascisti, questo c'è roba di dubbio, e quindi bisogna stare con Bertolaso. Allora, la realtà è che Berlusconi poi, in altre conversazioni riportate dai giornali, ha detto delle cose tremende. Innanzitutto che se Salvini pensa di prendersi il centrodestra in questo modo è un coglionazzo, ha detto. Poi la Meloni ha fatto la babysitter a casa di Fiorello, questo è il suo unico lavoro. Salvini una specie di comparsa, ragazzi. Siamo veramente agli stracci. Poi, per carità, in politica tutto si ricompone, eccetera, eccetera. E dall'altra parte, cioè dalla parte della Meloni, a Roma è iniziata la gran cassa della propaganda. La gran cassa della propaganda. Per esempio, quando dice Bertolaso non ha saputo scaldare i cuori dei romani. Ma se fino a qualche giorno fa eri a spada tratta a fianco di Bertolaso, non ha saputo scaldare il cuore dei romani. E voglio fare un appello a Guido Bertolaso, perché noi abbiamo sostenuto Guido Bertolaso fino ad oggi, ritenendo che il suo curriculum potesse essere assolutamente un valore aggiunto per il governo della capitale. Però è un dato di fatto che Guido Bertolaso fin qui non è riuscito a scaldare il cuore dei romani, non è riuscito a tenere compagnia. Poi è iniziata l'altra gran cassa della propaganda, la lupa che allatta due gemelli, il sindaco che allatta il bimbo. Adesso ci sarà tutta la campagna elettorale, la lupa che allatta i gemelli, il candidato sindaco che allatta il bimbo. Cioè siamo passati, cioè è la cosa è incredibile, siamo passati da non posso fare il sindaco in gravidanza perché dura al settimo mese eccetera eccetera, non certo. Posso fare la campagna, all'esaltazione di questa roba qui, cioè all'esaltazione, bravo, una cosa incredibile, cioè veramente solo in Italia siamo capaci di cose di questo. Ma io non lo dico con astio nei confronti della Meloni, lo direi nei confronti di chiunque, me ne fotto della Meloni, della sinistra, dei grillini, non me ne frega nulla. Però è un dato di fatto, siamo passati da dire la gravidanza è un problema, non posso fare il sindaco, addirittura la presa, cioè al divertimento, no? Che è la lupa che attacca, no, allatta all'ostentazione, sì, a rivendicare la lupa che allatta i due gemelli e il sindaco che allatta il bimbo. Ma è un uso politico della gravidanza. Il sequestro della gravidanza, il sequestro della gravidanza. No, quello è il sequestro di Dio che ha fatto la Lega, quello bravo, sì. Sequestro della gravidanza, bravissimo. Aspetta, sequestro aspetta, politico. Aspetta. Fammi sentire la Meloni, non si sente in cazzo da Trento, là per la Laura di tuo fratello. Nella città che ha come simbolo una lupa che allatta due gemelli, non sarà un problema un sindaco che allatta un bambino. Ma tu ti rendi conto, non sarà un problema? Fino a 5 secondi fa era il contrario, cazzo! Fino a 5 secondi fa! 5 secondi fa! Ma non ne posso più di fronte a queste cose qui, non ne posso bravo, più bravo, è tutta bravo. Una cosa politica, ci hanno fatto due coglioni così in quattro giorni sulla ma mamma. Ma stai dicendo delle cose intelligenti? No, ma le indagini sociologiche, la bravo. Mamma può fare il sindaco, il sessismo, le frasi di Berlusconi, le frasi di Bertolaso, non c'entra un cazzo, vi stanno prendendo per il culo. L'unica cosa sono la lotta politica tra di loro, quelli che vogliono fottere Berlusconi, quegli altri che vogliono fottere Marchini, eccetera eccetera. Poi l'altro Bertolaso, cioè, non si accontenta di quello che ha detto e ci mette il carico da 90, no? Dice, avesse partorito sei mesi fa, poteva fare il sindaco e il candidato. Ma stai zitto su questa cosa ormai, ti sei contraddetto 40 volte. Prima ha detto che era una battuta, poi ha detto no, non era una battuta. Basta, muto su questa roba qua, muto! Nelle felici condizioni attuali saremmo in grado di fare il sindaco o no? O il candidato sindaco? Certo, lei se la Meloni avesse partorito sei mesi fa, per dire, lo potrebbe fare tranquillamente, secondo me. Crozza! Al Comune di Roma dal 2012 al 2014 è un'illegalità continua, ma in tutti i settori. Strade, asili, canili, ospizi, macelli, giardinetti, assistenza ai disabili. E il problema di Roma sarebbero le mamme? Il problema è che ci sono i figli di Troia, non le mamme. A parte che adesso viene fuori che le neomamme non possono fare più politica, si apre un problema vendola. Comunque. A proposito di omosessuali, il sito gay.it, che è un sito molto frequentato dalla comunità omosessuale e non solo, oggi ripubblica un'intervista fatta a Francesco Totti, cioè questi si attaccano veramente a tutto, e definisce l'intervista omofoba a Totti che è stata dimenticata. Ora, state a sentire questa roba qua, e ditemi se secondo voi è omofoba o no. Cioè, se Totti, capitano della Roma, peraltro il presidente della Roma ha detto che non deve più giocare a pallone, e alcuni, tra l'altro alcuni candidati sindaco a Roma dicono no, invece deve continuare a giocare a pallone un altro anno, eccetera, parentesi, ditemi voi se questa roba che ha detto Totti è una roba omofoba oppure no. Sentite, eh? Se tuo figlio volesse fare il ballerino? Perché no? Mamma mia, queste domande. E se diventasse un capultra? No, dai, no. Da Roma, però. E se tuo figlio ti presentasse il suo fidanzato? Mi dispiacerebbe, magari non posso diventare nonna, ecco quello. Porco dici, m'ammazzo, però alla fine, oh, cioè, ci può stare. Hai avuto esperienze omosessuali? No. Non fa parte del mio repertorio. Allora, la frase su cui si attaccano è mi ammazzo, cioè se tuo figlio si presenta con un fidanzato, credo che fosse quella la domanda, adesso non me lo ricordo perché ho l'alterosclerosi, tu cosa fai? Mi ammazzo. Poi a un certo punto rimedia e dice vabbè, oh, ma che dico? Io voglio bene lo stesso, dai. Più o meno dice così, dai. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Vedo quel deficiente di Parenzo di fronte a me. Qui in facoltà a giurisprudenza a Trento. Allora diciamo subito, poi andremo nei dettagli, caro Davide, adesso non cominciare a parlare perché si sente una mazza, che tuo fratello si è appena laureato con il voto di 110 e lode, dunque bravo. La tradizione della famiglia Parenzo dei laureati, tranne David, continua. Volevo precisare soltanto questo, siamo alla quarta generazione. Allora, entrando all'università ho provato un brivido straordinario. Durante la laurea mi sono permesso di saltare sul banco dove c'erano questi cosiddetti professori e ho imposto il 110 con la lode. Loro, ma come hai imposto? Silenzio. Ma scusa Caparra, che cazzo dici? Sono un attimo ribellato. Ma scusa Mario, ma te che cazzo ti frega della laurea del fratello di Parenzo? No, era semplicemente un principio, del fratello di Parenzo non me ne frega un cazzo. Mi interessava riaffermare il principio che i Katanga sono tornati. A quel punto abbiamo sfondato... C'è l'imposizione non più del voto, diciamo, di quello che era il 6 politico. Che no, no, molto di più, è un diritto 110 e lode. I professori si sono inizialmente ribellati e abbiamo cacciati a pedate nel culo. Scappavano come conigli, come ai bei tempi. Io non capisco questa cosa, comunque. Barracuda. Allora ragazzi, abbiamo anche da farvi ascoltare quello che ha detto Berlusconi a proposito dei campi rom. È una cosa abbastanza incredibile, diciamo la verità. Cioè vorrebbe realizzare, lui sostiene, delle cittadelle dei rom, una cosa di questo tipo, una roba pazzesca, dai. Non c'è possibilità di entrare con una ruspa nei campi rom attualmente e buttarli per aria. Nei campi rom ci sono più di 100.000 nomadi che sono di cittadinanza italiana. Bisogna prima risolvere il problema di un loro posizionamento e io ho in mente, per esempio, la costruzione di quartieri dislocati in giro per l'Italia dove, come Bertolaso ed io abbiamo fatto all'Aquila, possono essere sistemate queste famiglie, imposte a queste famiglie delle regole da seguire come i bambini a scuola e offerti dei lavori pubblici a ciascuno di loro. Cioè siamo, io penso che addirittura questa posizione è oltre Parenzo. No, è ottimo, oltre Parenzo, sei diventato berlusconiano, cioè. Ottimo, ma vedi che invecchiando. No, ma ragazzi, la cosa, è veramente incredibile. Ma allora, no, è buon senso, no, ha capito anche ma lui. Che buon senso, i quartieri in giro per l'Italia dei Rom. No, ma aspetta, costruire delle cittadelle come all'Aquila è una cosa strana. Mi è venuto fuori Capanna, non so perché. Una cosa strana. Ma ragazzi, ma è una follia. Ma una... No, è politica. I lavori pubblici, ai Rom, Berlusconi. No, ma vuole perdere le elezioni, allora hanno ragione quelli che dicono che vuole perdere le elezioni, amico mio. Il buon senso, vecchio mio, sei rimasto soltanto tu e Salvini, siete rimasti. Ma a scusami, fammi sentire Salvini di risposta a Berlusconi, ti prego, che questa cosa del lavoro pubblico ai Rom, forse Salvini non se ne è reso conto, lavoro pubblico, come se lo Stato avesse, cioè bisogna tagliare i dipendenti pubblici e lui propone una cosa chiaramente inapplicabile, i lavori pubblici ai Rom. Berlusconi, ma Berlusconi, ma chi cazzo te vota a Roma se fai così, se dici così? Oggi Berlusconi ha detto: il problema dei Rom li risolvo costruendo dei villaggi per i Rom e dandogli dei lavori statali. Ora, se vuoi fare il sindaco con la Lega, tu puoi pensare di costruire dei villaggi Rom dandogli il posto di lavoro? E ma... fallo e fatti votare dai Rom, così gli dai il villaggio e gli dai il posto di lavoro. Siamo veramente alla follia, dai, siamo alla follia. Cioè, quello vuole le ruspe nei confronti dei Rom. Tutto il centrodestra dice che i Rom vanno abbattuti, i campi Rom devono essere considerati come noi, cioè cercarsi il lavoro e cercarsi anche le case da soli. E quello non solo vuole costruire dei fantomatici quartieri Rom in giro per Berlusconi, sto parlando, quartieri Rom in giro per l'Italia, ma in più gli vuole dare pure il lavoro dello Stato. Ma quale lavoro dello Stato? Non esiste più il lavoro dello Stato. Lavori socialmente utili, certo, giusto. Ma che giusto, dai. Francesco da Roma, vai Francesco, vai, 800 24 00 24, vai. Sì, ciao ragazzi, a parte che io ero rimasto molto divertito perché anche a me oggi mi hanno citofonato per benedire la casa. Eppure io vivo a Roma a trasferire, c'ho una manzata con mia nonna, come quel ragazzo che ha chiamato l'altro ieri. Mia nonna fa: oh, mandalo via, se no prendiamo il calcio in culo. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? No, vabbè, tua nonna. Mia nonna, che insomma. Tua nonna anti-papalina, cioè anti-chiesa, anti-clero, che ha fatto? Si rompono i coglioni questi che vengono qua. Rompono i coglioni. Adesso uno può pure rispondere: no, non ho voglia di essere, non ho voglia di farmi benedire la casa, cioè molto semplicemente, no. A Giuseppe ci sono attaccati al citofono per un quarto d'ora. Vabbè, allora sì, allora mandali a fare in culo, subito, no, immediatamente. No, infatti ho preso il fucile con cui spara i piccioni, guarda com'è volato via. Hai preso il fucile da sotto, hai sparato in aria, andatevene. No, ma perché tu sei quello che sparava i piccioni? Sì, sì, sì, certo, sempre io. Sempre tu, sempre no, tu, puntuale. Dire... Hai superato il mese di e via subito a telefonare alla Zanzara, dopo i piccioni hai sparato pure ai preti che volevano benedire casa tua. No, vabbè, però, dimmi. Ti volevo dire una cosa seria, si è parlato molto di omicidio Varani, questi mezzi froci, soffroci, soffroci. Mezzi froci, erano uno forse era omosessuale, ma chi se ne frega. Ma il punto è, comunque, dalla stampa, tutti due mostri, obiettivamente non hanno rispetto per la vita e su questo direi che non ci piove. Dunque? No, tra l'altro oggi i genitori di Varani, secondo la stampa, ma ci sono dei virgolettati, dicono che ci vuole la pena di morte, cioè la pena di morte per gli assassini, e non vogliono nessuna perdono, nessun incontro con il padre di Fofo, con chi vuole incontrarli, i genitori dei due assassini. Beh, guarda, io penso che se ti ammazzano un figlio così, che gli vuoi dire? No, ma infatti non sto dicendo questo. Io sono contro la pena di morte. È chiaro che i genitori vorrebbero la pena di morte. Ovviamente sentimentale, che non è. Vabbè, allora Francesco. È inopinabile. Però volevo porre in relazione, appunto, tutti quelli che hanno detto che sono dei mostri. Tutti i genitori di questi ragazzi, di questi assassini, erano eterosessuali, erano sposati, coppie per bene, no? Allora... Volevo fare un ragionamento, appunto, di porre in relazione con tutti coloro che hanno detto. I figli generati da una maternità surrogata, chissà che problemi possono avere. Chissà che problemi possono avere, ma tutti i figli della mignotta, tutti questi che ammazzano, che stuprano, che fanno, questi invece sono tutti probabilmente famiglie normali. No, no, la maggior parte, il 99,9% dei casi nascono e crescono in famiglie apparentemente normali, con matrimoni eterosessuali. Dunque, io vorrei dire, è l'ambiente qua, è l'ambiente. Va bene, grazie, grazie. Mariano Piacenza, Mariano Piacenza, vai. Ciao a tutti. Dimmi. Io sono d'accordo con Giuseppe Cruciani. Su che cosa, scusami? Vogliono perdere le elezioni, tutti, perché Roma è una patata bollente ora. Quindi per me chi può essere sindaco di Roma, perché esprime un popolo, è Mario Adinolfi. Mario Adinolfi, ma tu sei bagato in testa, sei, cioè... No, te sei bagato in testa. Ma tu sei bagato perché... in testa, come diceva una volta il professore, cioè... Sì, poi vedrete all'amministrazione. Ma chi è l'unico che può amministrare Roma? Adinolfi. Ma tu sei impazzito, cioè, si candida con... Che è il partito? È il partito della famiglia, Adinolfi candidato a Roma. A parte che nessuno sa che è candidato a Roma. Poi, se tu pensi che Adinolfi possa amministrare Roma, sei proprio picchiato in testa. Sei. Perché la stampa è tutta di partito, tutta di partito, o per il Movimento 5 Stelle, Che succede? Di Parenzo. oppure no, veramente Parenzo non è per i 5 Stelle comunque. Sì. Vabbè, allora 5 Stelle. Secondo me non danno spazio a questo popolo. Oh, il popolo della famiglia. Ma che cos'è il popolo della famiglia? Cos'è? Già la parola stessa mi fa orrore. Il popolo della famiglia. Ma che è il popolo della famiglia? No, non ho più tempo per queste stronzate. Ma quando chiuderanno questa trasmissione, io cosa cazzo mi ascolto? A questo ci pensa Squinzi. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. La Zanzara. Siamo a Mantova, abbiamo visto la Cappella degli Sposi, la bella città, abbiamo mangiato nei migliori ristoranti. Ma dove ma cazzo non abbiamo visto Mauro da Mantova, dove cazzo sei? Luciani, siamo davanti all'Allianz Arena, ma noi ascoltiamo la Zanzara, ciao! Beh, grandi questi ascoltatori davanti allo stadio dove stasera si giocherà la partita della Juventus, che comunque hanno il telefonino collegato con la cuffietta e ascoltano la Zanzara a Monaco di Baviera, Monaco di Baviera. Parenzo, non è perché io ce l'ho con la Meloni, per carità, però, amico mio, bisogna notarle alcune cose. Cioè, la destra a Roma, oltre a Marchini, che non può essere considerato di destra, ha praticamente due candidati principali, a parte ancora Storace. Uno che non si voleva candidare perché stava male la nipote, signor Bertolaso. Un'altra che non voleva perché era incinta. Cioè, tu ti rendi conto il paradosso. Poi ancora sulla Meloni, che ha detto all'inizio no alla sua candidatura. Cioè, all'inizio aveva detto di no alla candidatura a sindaco. Poi anche in contemporanea no a Marchini. Questo è il passaggio, è stato no alla sua candidatura, no a Marchini. Poi a un certo punto aveva detto sì a Dalla Chiesa. Tu non ti ricordi questo passaggio? Era stata lei a proporre Rita Dalla Chiesa. Vabbè, poi ha detto sì a Bertolaso. E infine ancora no a Bertolaso e sì alla sua candidatura. Cioè, il passaggio è stato questo. No alla sua candidatura. No a Marchini. Sì a Dalla Chiesa. Sì a Bertolaso. No a Bertolaso. Sì alla sua candidatura. E viva la Meloni, ragazzi. Però io voglio rimanere sulla frase che ha detto Berlusconi, perché il fatto che Parenzo sia d'accordo sulla frase di Berlusconi sui campi rom. Ma perché è buon senso, vecchio mio? No, cioè, ho capito che tu dici buon senso. Per me è pura follia, perché è politica, è governo, non è ruspa che è pancia, è governo. Allora, ti leggo semplicemente una cosa a proposito dei rom, che leggo oggi da alcune cronache locali che riguardano Milano. I signori rom trasferiti dal campo di Via Idro, che giustamente dalla giunta di sinistra di Pisapia è stato sgombrato e sono stati messi non so dove, alla casa della carità di Don Virginio Colmegni, alcune famiglie. Sì. Questo dicono alcune famiglie rom. Non siamo lontani, ma non stiamo bene. Cioè, capito? Non siamo lontani, ma non stiamo bene. Non hanno portato lì tutta la nostra comunità, ma solo noi, e siamo in mezzo a persone che non conosciamo. È pieno di africani, romeni, asiatici. Perché dobbiamo mischiarci a loro? Perché dobbiamo mischiarci agli africani, ai romeni, agli asiatici? E poi le condizioni della baracca nella quale ci hanno messi sono pessime. Peggio di dove stavamo prima. Siamo costretti a dormire per terra. Adesso, per carità, non è bello dormire per terra, ma non si vogliono mischiare agli africani, ai romeni, agli altri. Cioè, c'è razzismo pure tra di loro, capito? Non si possono vedere neppure tra di loro. Dai, su, ragazzi. la frase di Berlusconi, vi prego, perché poi c'è una prima carrellata di ascoltatori che è intervenuta attraverso questo mezzo meraviglioso che è il WhatsApp, che noi viviamo in tempo reale, 393 71 71 701. Lo ripeto e ve lo scolpisco: 393 71 71 701. La frase di Berlusconi è poi una carrellata di pareri di ascoltatori che non sono anti-berlusconiani, tutt'altro. Non c'è possibilità di entrare con una ruspa nei campi rom attualmente e buttarli per aria. Nei campi rom ci sono più di 100.000 nomadi che sono di cittadinanza italiana. Bisogna prima risolvere il problema di un loro posizionamento, e io ho in mente per esempio la costruzione di quartieri dislocati in giro per l'Italia, dove, come Bertolaso ed io abbiamo fatto all'Aquila, possono essere sistemate queste famiglie, imposte a queste famiglie delle regole da seguire come i bambini a scuola, e offerti dei lavori pubblici a ciascuno di loro. Berlusconi si è completamente rincoglionito. Adesso vuole costruire Milano Rom. Figa, Berlusconi sta diventando comunista come Parenzo, porca troia. No, quella delle cittadelle per i Rom invece mi sembra un'idea fantastica. Speriamo che le costruiscano come le case all'Aquila, che così ci siamo tolti il problema una volta per tutti. Gli crolla tutto in testa. Arrivederci, grazie. Non avete capito un cazzo, dopo Milano 2 arriverà Rom 2. Messaggio per Parenzo, messaggio per Parenzo da un'ascoltatrice. Aspetta Parenzo, prima di intervenire sui Rom, c'è una che ti cerca a Trento, una che ti cerca, accoglila con perché mi sa che è pure buona. Accoglila con una certa grazia. Ma dov'è? Aspetta, innanzitutto vuole sapere dove sei, perché ti vuole venire a trovare. Sono qui. Ma guarda, con mio fratello. Ma è una bravissima persona, una ragazza, una brava persona, e anche. Volevo dirti che invece. No, ma aspetta, ma perché devi trattare male la gente che ti ascolta? Aspetta. Non me ne frega un cazzo. Il nome della città deve essere Romland. La cittadella Rom di Berlusconi. Romland. Siamo alla pura follia, cioè nemmeno Hitler secondo me arrivava a cose di questo tipo. Ma tutt'altro, quello li voleva sterminare. No, ma Hitler li voleva portare in un posto isolato, no? No, ma qui costruire delle casette. Ma guarda che io capisco. Ah, una boiata. Vanno a cercare casa come tutti noi, no, se sono italiani, anche se non sono italiani. Andare alle agenzie immobiliari, rivolgersi agli amici, se non hanno amici tra persone, diciamo, che non sono rom, pazienza, affari loro, non mi interessa. Oppure fare come facciamo tutti noi. Cioè che ci sbattiamo per affittare attraverso conoscenze, inserzioni, agenzie immobiliari, eccetera, eccetera. Non capisco perché questa discriminazione, cioè nei confronti delle altre persone. Non sono loro discriminati, non sono loro vittime. Siamo noi vittime della loro arroganza. Siamo noi vittime del fatto che... ma è così, è la realtà. Tutti riconoscono questa cosa come la realtà. Tu e adesso addirittura Berlusconi, oltre alle associazioni Rom, pensate invece che i Rom siano discriminati. Il fatto che Berlusconi abbia cambiato idea su questo denota un suo pragmatismo per risolvere un problema. E tu sai quanto io nel corso degli anni ho contestato Berlusconi su molte cose. Ah, no, ma Berlusconi secondo me... ma devo riconoscere che quando dice una cosa intelligente, politica e di governo, bisogna dirgli bravo, benissimo. Parenzo, ti prego, dimmi dove sei a festeggiare, che ti vengo a fare un saluto, a chiedere un autografo e magari parlo il telefono anch'io con te, con la zanzara, e dai, facciamo una conduzione collettiva, dimmi dove sei precisamente a Trento, che ti raggiungo. Ma scusa, una voce così gentile, così bella, così, così avvolgente. Allora, ringrazio la signora, l'ascoltatrice, dove in un posto segreto nella via centrale di Trento. Ma che? Ma sarà in una birreria sicuramente. Adesso seguiamo. Esatto. Adesso seguiamo come la birreria di Hitler, bellina, come la birreria. Ma che sei fissato? Ma che sei la birreria di Hitler? No, perché mi ha ricordato la birreria di Hitler, dove fu progettato il colpo di Stato, là, che cazzo era. Ah sì, certo. Comunque questa ragazza è così simpatica, così carina, non capisco perché non la devi accontentare. Falla arrivare lì, è un omaggio che ti facciamo, è anche, mi sa, anche carina. Adesso fra poco te la chiamo, non ti preoccupare. Ma me ne fotto, non uso la radio. Ma come te ne fotto? Ma poi attacchi me perché rispondo male alla gente, scusa. Ma no, ma non uso la radio per mezzucci privati. Ma no, mezzucci privati, semplicemente questa qua gli fa piacere darti là un bacio anche sulla guancia, congratularsi con tuo fratello per la laurea 110 all'Odi in una materia ma importante. Ma chi la conosce? Ma il ma privato che vuol dire? Privato, chi la conosce? Privato, ah, no, privato. Invece ti devo dire questo, perché ho incontrato a Trento, sì, questo te lo devo dire, un ragazzo che ha vinto, ha fatto la foto, il selfie, sì, parla si, bene. Chiama, si chiama Omar, Omar sì, è figlio di marocchini, muslim, attento, muslim, muslim, esattamente, musulmano, musulmano, vabbè, musulmano, pazienza. Figlio di marocchini, che cazzo vuole questo? Cittadinanza italiana. Che vuole questo? Mi ha ringraziato e abbracciato perché difendo i diritti suoi e degli altri. Beh, pensate come sta messo questo. Stai zitto. E allora? Allora? E mi ha detto che il suo sogno è quello di fare il magistrato. E sti cazzi, allora, ma che ce frega a noi, no, che il suo sogno è fare il magistrato? È bellissimo che un ragazzo che ha studiato all'università sta laureando in circolazione. Vabbè, vuole fare il magistrato, vabbè. Un musulmano. Paolo da Forlì, vabbè, mi sembrava interessante sta roba, è una puttanata. Un messaggio meraviglioso. Paolo che da Forlì. A fare in culo quei miserabili. Ma che? Leghisti. Ma perché? E quelle nonnine, ma io te lo assicuro, se sento ancora. Adesso te le voglio chiamare in massa queste. Nonnine di Radio Padania che rompono i coglioni sugli immigrati, gli va ritirata la pensione immediatamente. L'hai già detto, trova cose nuove. Paolo Forlì. Paolo da Forlì. Vabbè, ma zittitelo, dai, Paolo da Forlì, dai. Ciao Cruciani, mi volevo ricollegare un attimo con ieri, che so che avete parlato di Pantani. Ti volevo brevemente chiedere, perché sono rimasto stupito dalla tua dichiarazione di come mai, cioè appunto ti sei stupito del fatto dei medici che sono stati... No, ma ragazzi, io ho detto una cosa, mi hanno attaccato, non capisci un cazzo di ciclismo, non capisci un cazzo di doping. Io ho un sacco di messaggi, dopo ve li farò ascoltare, di persone che mi hanno attaccato, non capisci un cazzo, Pantani, eccetera, non era doping. Non hanno trovato quelle fialette di Epo in mano, hanno trovato dei valori del sangue che di cui aspetta, e si parla in questi casi di doping. Poi il complotto contro Pantani, nessuno lo ha ancora dimostrato. Ci sono una serie di pentiti e un magistrato che utilizza, come dire, delle espressioni così interpretabili in mille modi, i quali dicono che forse la camorra è intervenuta per fregare Pantani, perché altrimenti ci ripeteva con le scommesse. A me pare una cosa incredibile e dunque ho detto come la penso. Da quello che leggo mi sembra un'ipotesi ancora molto fumosa. Altri hanno detto: ah, la camorra ha fatto le peggio cose. Certo che ha fatto le peggio cose, ma mi sembra improbabile che sia riuscita a modificare le provette di Pantani in quei due ore, un'ora da quando sono state ritirate. Cioè, mi sembra abbastanza chiara la cosa, no Paolo? No, io ti volevo dire un'altra cosa, ti volevo dire che nel mondo del ciclismo, se te che frequenti il mondo dello sport, dello spettacolo, il mondo del ciclismo, se te parli con qualcuno a telecamere spente, lo sanno tutti. Cosa sanno? La cosa brutta cosa sanno tutti? Che è stato imbrogliato Marco quel giorno ma lì. Che vuol dire è stato imbrogliato? Da chi? Da chi? Ma da chi? Aspetta Paolo, fermo lì, tu chi sei? Un addetto ai lavori? Chi sei? Sì, sono un addetto ai lavori. Benissimo, ma io sono disposto ad accettare qualsiasi cosa, purché sia una cosa in cui mi si dice è stato questo, è stato quest'altro, non tutti nell'ambiente sanno che è stato fregato, perché questa cosa qua non rappresenta nulla, niente, solo chiacchiere. Per carità, campiamo di chiacchiere, va bene, aspetta. La Zanzara sono le nostre due ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. Ma che cazzo vuoi saperne tu, Cruciani di Pantani? Ma stai zitto e non dire una parola, coglione, che tu dovresti sciacquarti la bocca prima di parlare di un grande campione come Pantani. Idiota. La camorra lavora anche in Parlamento. E vi stupite che riescano a cambiare un paio di provette a quattro medici sfigati? Vabbè, questi alcuni dei messaggi che sono arrivati su Pantani, tutti di insulti, eccetera, come ti permetti di attaccare, ma io non ho attaccato nessuno, io ho semplicemente detto portatemi le prove della camorra e del complotto contro Pantani per quello che riguarda la morte, ma lasciamo perdere la morte, del complotto della camorra contro Pantani, a parte i pentiti, portatemi le prove, uno che dice sì è vero, ho corrotto i medici, hanno fatto cambiare le provette e l'abbiamo fottuto. Uno ci deve essere, noi i pentiti che riferiscono quello che è tunto tunto tu. Dai, su. Allora, però abbiamo Paolo da Forlì, che è un addetto ai lavori e ci stava dicendo una cosa molto interessante. Addetto ai lavori cosa significa, Paolo? Che ho lavorato in quel campo lì, lavoravo nel mondo delle biciclette, conosco tante persone che sanno, cioè la cosa che mi fa rabbia, io non ero neanche un tifoso di Pantani, quindi non è cioè, che lo sto difendendo. Scusami Paolo, lavorare in quel campo lì cosa vuol dire? Cioè, perché sennò uno dice lavoravo in quel campo lì. Meccanico nelle squadre che facevano le corse, che partecipavano alle corse. Nel 99 eri lì in quel posto, Madonna di Campina? No, nel 99 non c'era, però io conosco molta gente, molti addetti ai lavori. Allora? Allora, gli addetti ai lavori, se te ci parli per le camere spente e il microfono spento, ti dicono tutti la stessa cosa, che Pantani innanzitutto non è vero che non era dopato, cioè Pantani era dopato, ma come erano tutti all'epoca, certo, erano dopati tutti, certo, i ciclisti, certo. Però loro cosa facevano? Stavano tutti al limite dei 50, che era il limite che si erano dati, e Pantani lo sapeva benissimo che aveva 7 minuti di vantaggio, non sarebbe mai stato così stupido da farsi trovare quel giorno lì. Sapeva addirittura che arrivava al controllo, quindi è proprio una cosa assurda. E quello che mi stupisce, Cruciani, è che tu, cioè, quando in Italia sono tutti corrotti, gli appalti, tutto, cioè, dai politici fino a... Pensa, erano due medici, tra l'altro i medici hanno avuto anche un procedimento in cui hanno fatto una figuranza. Cosa c'entra quello che penso io sugli appalti e cose? Non sugli appalti tuoi, te li metti sempre in discussione tutto, poi non riesci. Cioè, io metto in discussione le cose sulla base di prove. Se mi dicono la camorra, cioè non è che bastano due o tre pentiti che dicono mi hanno riferito in carcere. Ma è stato facilissimo arrivare ai medici. È stato facilissimo, erano due medici che dovevano. Due medici. Ma lo so, ma ci sono anche nomi e cognomi di questi medici qua che hanno continuato a dire che tutto si è svolto in maniera regolare. Cioè, non hanno detto così, hanno avuto anche un procedimento in cui si sono contraddetti 4-5 volte in tribunale, hanno fatto anche una brutta figura. Sì, però Paolo, allora d'accordo, tutta questa cosa qui. A quale conclusione è arrivata tutta questa vicenda di Pantani? Questa conclusione qui è arrivata. La cosa nuova che è uscita è la camorra. Ora, tu crei. Ma non è nuova, è una cosa vecchia. Sì, lo so. Ci credi o no a questa cosa della camorra? Ma certo che ci credo, ma è la verità. Pantani è stato fottuto dalla camorra perché la camorra ci perdeva un sacco di soldi. Vabbè, ragazzi. Perdeva un sacco di soldi, da lì è partito. Come una biglia in discesa, da lì è partito tutta il suo disastro per arrivare poi a Rimini, perché non sarebbe successo. Dopo lui si è chiuso in se stesso, ha fatto tutto quel macello che ha fatto. Ma la partenza è stato un imbroglio. Se lui fosse dopato, ma lui erano dopati tutti all'epoca, stavano attenti. Paolo, non avrebbe mai potuto fare. Paolo, ho capito perfettamente. Ciao. Caro Parenzo, abbiamo una persona in studio che ti perdi oggi a Roma, che ti perdi oggi a Roma, capisco che c'è la laurea di tuo fratello, per carità. Ma in studio dove? In studio dove di solito sei seduto tu, guarda, dove di solito sei seduto tu. Cioè ha preso il mio posto, il mio... Ha preso praticamente, ti ha sostituito. Ma devo far disinfettare la sedia? Come fece Berlusconi durante una puntata di... Con Travaglio? Non lo so, no, disinfettare la... Non lo so, forse a te non piace molto la vita che un tempo faceva questo signore, però non credo che avrai bisogno di spazzolare domani, la sedia. Domani vediamo. Ma si lava almeno più di te o Non lo so, si lava, penso di sì, è uno che si lava, io le volte che l'ho incontrato era pulitissimo, per carità, profumatissimo. È con noi Pupo. Eccomi. Ciao Enzo. No, sicuramente non ha bisogno di alzarla né di abbassarla, al perfetto livello la sedia è quella lì, siamo alti uguali. Esatto, siete alti uguale. Saluta Parenzo che oggi... Ciao Davide, che ha fatto? Che ha fatto? Non sta lì accanto a te. Mi dispiace. Ma capisci che lo cercano le ragazze di Trento e lui non vuole andare, non vuole accoglierle. Cioè, e perché? Ma non lo so, strano, una ragazza di Trento lo voleva. A parte che io ho tre figli, quindi Ma che c'entra? Che vuol dire che non puoi incontrare una... No, ma sono felicemente, come dire, ho la mia vita sentimentale, quindi non ho bisogno di queste simpatiche, anche perché questa ragazza qui simpatica è a Trento, ti vuole venire a trovare posto dove sei, che si chiama, io l'ho saputo, dunque possiamo dirlo a tutti gli abitanti di Trento. Si chiama Pedavena, se non sbaglio, a Trento. Pedavena, no? Cosa del genere, sì. Pedavena 3. Sì, posso Pedavena. Tutti quelli che volete. Ma guarda che è pazzesco, uno non può picchiare Parenzo, insultarlo e anche abbracciarlo, oppure baciarlo sulla bocca. No, oggi mi hanno abbracciato tutti, anche questo custode, questo ragazzo che lavora alla... ragazza di Trento che si chiama Abdallah, Abdallah, molto gentile, che mi ha accompagnato e scortato. Sì, ma guarda che questa ragazza qui pare che sia una ricercatrice. Comunque, ragazzi, adesso parliamo di pupo, dai. Parliamo di pupo. Allora, caro Enzo, la questione fondamentale è una. Adesso tu comincerai a intonare una canzone che è la canzone che per la prima volta viene... viene diffusa in una radio del tuo nuovo disco, che è un disco, che è il primo disco dopo 20 anni, che dopo domani uscirà su tutte le radio. Si chiama, Parenzo, tanto per chiarire la cosa, Porno e contro, amore. Porno contro amore. Sì, io dico anche porno e amore, perché io sono ancora a porno e amore. Tu sei a porno contro amore. Porno contro, perché hai vinto la battaglia, dici? Beh, certamente il porno ha subito, l'amore ha vinto, perché ha vinto l'equilibrio, l'eccesso comunque in questo senso ha ceduto spazio all'amore. Però ti piaceva l'eccesso, eh? Ma l'eccesso non mi piace ancora, ma è chiaramente è un po' il veleno che, se usato in dosi infinitesimali, come un po' il principio dell'omeopatia, fa bene. E non come fa fai? Male. E oggi per te che cos'è il porno? Cioè, che cosa, ancora qualche zozzeria la fai? Qualche porcheria piccolissima la fai? Assolutamente o no? Sì, assolutamente. E che fai, sì, per esempio? Tradisci le due tue compagne, tutte e due? Quello non lo faccio. Masturbazione? Non ho più voglia. Beh, insomma, diciamo, quella è una cosa che in dosi piccole si può ancora pensare di prendere in considerazione. E allora la porcheria qual è? Qual è il porno di cui oggi in piccolissime dosi ancora ti fai? Che cos'è? Beh, insomma, sono cose molto, molto private, molto particolari, intime, sì, molto che dette alla radio danno un effetto... Ma è che insomma si fanno, film porno li vedi? Ma qualche volta sì, perché anche quelli vanno presi come tutte le cose, vanno presi per stimolo, perché non si può negare il problema della pornografia della nostra credo, no, io non sono, non è che si voglia fare il filosofo, non è che il caso, però credo che sia proprio la non ammissione delle nostre debolezze, certo, la gente non ammette più le proprie debolezze, perché tu per esempio usi il Viagra? Io non uso il Viagra perché non ho bisogno, ma per ogni tanto qualche stimolo da qualche scena pornografica, se è fatta bene, se insomma, se non troppo volgare, mi piace, mi stimola, mi diverte. Non troppo volgare, il porno è porno, eh. Poi certo c'è porno e porno anche là. Ma comunque, porno contro amore, vai. Non sono più capace di innamorarmi e di fare l'amore, ma ho un disperato bisogno di sesso che devo sfogare con te, con lei, con lui, da me. Passo le notti frugando nel buio con l'ansia di un ladro, fra sogni di plastica e voci doppiate dipingo il mio quadro con te, con lei, con lui, da me. C'è un gran disordine fuori e dentro me, nella mia mente c'è questo tarlo che distrugge l'amore, non riesco a ucciderlo, e lui si nutre anche del mio dolore. Ragazzi, live di Pupo qui alla Zanzara, che presenta il suo nuovo disco dopo 20 anni, Porno contro amore. È un assaggio assolutamente, certo. Poi più avanti manderemo la canzone, però caro Enzo, io ho pensato molto, come sai, alla realizzazione del video di questa canzone. Beh, che trovo molto bella, non perché sia tua, ma perché è così, perché la considero molto bella. Parenzo, l'hai sentita? L'ho sentita, è bellissima, e non so, verrà data in allegato col Sole 24 Ore la domenica? non credo, però potrebbe essere un'idea. Io ho un obiettivo per questa canzone. A parte, l'obiettivo era appunto anche fare il video con te, che per me veramente è un grande scoop, ma è Radio Vaticana. Che no. Radio Vaticana, sì, cioè tu che vuoi radio, io voglio Radio Maria o Radio Vaticana? Scusami. Tutte e due, Radio Vaticana e Radio Maria, perché questa è una preghiera. È una preghiera di una persona disperata, sì, che cerca un raggio di sole. A un certo punto dice: ma nella mia mente c'è questo tarlo che distrugge l'amore, ma in fondo all'anima c'è ancora spazio per un raggio di sole. La preghiera di persone disperate. Io sono convinto che se Papa Francesco ascolta questa canzone la fa passare, fa a, Radio passare Vaticana. A Radio Maria e Radio Vaticana. Non lo è so, una preghiera. Questo non lo so. Però è una bella cosa. Però è una bella cosa. È una bella cosa. Potrebbe forse più facilmente diventare l'inno della Confindustria. Questo no, ma questo mi pare molto difficile, perché la disperazione che c'entra il sesso, la Confindustria, no. Però ha ragione Pupo. Cioè, Radio Maria e Radio Vaticana potrebbero, siccome qui c'è la storia di una disperazione che poi ha trovato una sua riconciliazione, ha trovato una sua pace, se ma vogliamo. Che la cerca, no? Ma poi la cerca. Scusa, ma tu hai nel raccontare questa, cioè nel racconto di questa canzone, com'è la prima strofa? Com'è che non fa? Sono più capace di innamorarmi e di fare l'amore, ma ho un disperato bisogno di sesso che devo sfogare con te, con lei, con lui, da me. Allora, chi è? Con te chi sarebbe? Con te sarebbe con te, una donna generica. Con lei, con te, la donna che ami, con lei una donna generica, con lui con un uomo, sì, e da me masturbandosi. E tu sei mai stato con un uomo? Beh, dimmi la verità. Allora, la verità è questa: io sono qui per essere sincero. La verità è che io ho avuto un periodo di senso compulsivo molto lungo. E questo lo sappiamo, l'hai raccontato per più 10 volte. Anni. L'ho raccontato più volte. E in cui c'è stata anche qualche volta l'omosessualità. Sì, esatto. Cioè, sei stato anche con un uomo? Sì. Cioè, ma passivamente o attivamente? Attivamente, cioè l'hai messo dietro a un uomo, insomma. Ma passivamente o attivamente non conta niente. Beh, no, non vuol dire niente. Queste sono tutte forme che. Ma io sicuro non... che conta un po'. No, assolutamente, anche perché guarda, la passività è meravigliosa se ci pensi bene, perché la stimolazione della prostata ti dà solo godimento. Quindi il top per un uomo sarebbe, proprio questo è scientifico, è scienza, non è che lo dico io, è fare l'amore e introdurre il membro eretto nella vagina e farsi. Nello stesso tempo avere qualcosa che ti stimola la prostata da di dietro, c'è il massimo del godimento. Questo hai capito o no? Questa è scienza. Però ho capito che è un pupo multiforme, va bene, benissimo. No, voglio dire, ma questo lo sapevamo, però lui dice una cosa molto, molto chiara. Dice, dal punto di vista scientifico... Lo so, ma come posso commentare ciò che io non pratico? Dovresti essere aperto da questo punto di vista. No, tu che sei aperto un corno, lì sono chiusissimo. Ma voglio dire, lascio a voi queste aperture moderne, bene così. Io sono per la vecchia azienda, per l'azienda, quella tradizionale, diciamo. Ma non sono aperture moderne. Allora Davide, il fatto è questo, che capisco che sono stati eccessi nella mia vita, che io oggi però purtroppo... Ma io ho raggiunto un equilibrio grazie anche a un percorso di sofferenza, certo, che oggi non ho più bisogno di quello, ma vedo tanta gente disperata invece che ne ha bisogno, perché oggi... Ma come sei guarito? La compulsività sessuale è un problema grave. Come problema sei guarito, grosso. Enzo? Come ma trovando due donne meravigliose vabbè, quello ce l'avevi però a un certo punto, cioè hai conosciuto Patricia, cioè che sarebbe l'amante praticamente. Non è l'amante, la mia compagna all'inizio era l'amante. Ma l'amante non è mai stata l'amante Patricia, perché è stata una persona che ha contribuito in maniera fondamentale a darmi equilibrio. Ma Anna in questo senso è stata straordinaria, perché ha saputo starmi vicino anche sapendo delle mie problematiche e della mia del mio problema. Dunque, che avevo da quando tu hai iniziato, io ho sofferto di compulsività, del gioco d'azzardo, della sessualità, ho sofferto di questo, e oggi vi giuro è meraviglioso poter raccontare serenamente queste cose qua. E lo hai voluto fare con una canzone, esatto, con un album, questa canzone che dà il titolo ad un album che parla di questo. Senti una cosa, ma tu, a partire da quando, dal momento in cui hai conosciuto Patricia, diciamo, inizi a guarire, no? Sì, esatto. Ma che rapporto c'è? Caro Parenzo, lui è l'emblema di quello che noi chiamiamo il poliamore, cioè la fotografia della bigamia. Della bigamia. No, la bigamia è reato. No, la bigamia non come reato. Però nei fatti è così. Nei fatti è così. Non è che sei sposato due volte, sei sposato con una persona e poi c'è una compagna. Esatto. Ecco, ma io non ricordo, nella tua casa vivono entrambe le compagne? No, assolutamente no. No. Io ho tre case, una a Roma, una a Firenze e una a Ponticino. Quanto ti costa tutta sta roba? Tantissimo. benissimo. Infatti sono appena tornato dall'Australia, ho fatto due concerti a Melbourne e a Sydney, ho già finito i soldi perché ho dovuto pagare. Ah no, beh, incredibile. Cioè, io devi sapere che sei praticamente un parenzo al cubo tu, perché tutta, diciamo, i tre figli, due donne con cui praticamente convivi, una moglie, eccetera, eccetera, e altre cose ancora, e la tua vita, che comunque sei uno che spende, ragazzi. Una volta che l'ho incontrato, mi ha portato una bottiglia di champagne in cristal, non è che stiamo qua, non è che stiamo a giocare. Beh, amico mio, non è che sei uno che si risparmia, giustamente, che sei uno che vuole vivere bene. Ma io, beh, cioè, quello sì, io voglio dare, Giuseppe, alla mia vita un senso, anche voglio dare una dignità anche alle persone che stanno con me. Cioè, a un certo punto, tanti anni fa, ho deciso di coinvolgere Patricia e Anna in un progetto che sembrava impossibile, perché non volevo mancare di rispetto né a Patricia né a Anna. No, come, ma con chi vai a letto? Con chi vai a letto? Con tutte e due? Tutte due, con tutte e due, certo. Con, ma con che frequenza? Non insieme, no, non insieme, insieme, questo abbiamo. Ma con che frequenza? Ma con la frequenza che l'esigenza ormai chiaramente è più meno frequente. Una volta al mese. Ma non quella la frequenza, ma dipende anche se sono situazioni che. Ma anche a giorni ravvicinati? Anche a giorni ravvicinati, perché no? Sì, sì. La prima una, poi l'altra. Quando me la sento, ecco, quando me la sento, quando ce la sentiamo, lo facciamo per amore, lo facciamo. Parenzo, capito? Cioè, no, ho capito perfettamente, dopodiché. Perché non hai adottato anche tu questa strada invece della separazione? Poteva essere una strada, no, poteva essere una strada opportuna, scusa. Poteva essere una strada, scusami. Ma io, diciamo, ho fatto scelte diverse dalle vostre, ma non mi permetto di criticare. E la scimmia, quando ti prende qualche volta, la scimmia del passato, Enzo? Cioè, ancora sta lì in agguato alla, o no? Tu dici il demone, che ne so, che il demone, che ne so, un trans che si avvicina, un trans, che una cosa del genere. Ci sono dei momenti ancora, perché chiaramente i demoni che albergano dentro di me, endogeni, sì, non sono morti. Io li controllo, e non puoi capire la fatica, a volte è proprio la sofferenza, che è quello del gioco d'azzardo, è quello della sessualità. È chiaro, ogni tanto tentano di riemergere di nuovo, ma io sono talmente sereno, talmente forte, che ancora oggi non sono riusciti di nuovo a praticamente vincere, a emergere, a vincere. È chiaro. Ed è questo lo una volta pure con trans sei andato, mi ricordo, ci hai raccontato, uno pure con trans. Quante volte sei andato? Ma guarda, è capitato più volte. Che una volta ho avuto un incidente stradale. Aspetta, poi me lo racconti dopo la pubblicità, fermi tutti. Enzo Chinazzi con noi, Pupo, racconta porno contro amore. Cruciani, Parenzo, Marameo. La Zanzara. Non sono più capace di innamorarmi e di fare l'amore, ma ho un disperato bisogno di sesso che devo sfogare con te, con lei, con lui, da me. Passo le notti frugando nel buio con l'ansia di un ladro, fra sogni di plastica e voci doppiate dipingo il mio quadro con te, con lei. State ascoltando la canzone principale del nuovo disco di Pupo, Porno contro amore. Il grande Enzo Chinazzi è con noi. Io mi riconosco moltissimo in questa canzone, lo devo confessare, Parenzo, cioè è una canzone in cui mi riconosco, che devo fare? Sei uno dei protagonisti anche, no, forse, ma al di là del video, al di là delle idee che ho sulla realizzazione di questo video. Poi me lo dici, perché ancora non ho mai detto niente sul video. Sì, no, in realtà è vero che da un certo punto di vista mi riconosco molto in quello che ha passato Pupo. È vero, Parenzo, è così? No, tu lo sai. Ma certo, ma sei l'alter ego di Pupo, cioè. Ma adesso non esageriamo, abbiamo storie diverse, eccetera. Però da questo punto di vista sei un malato di sesso anche tu, ma vabbè, voglio dire, si chiama malattia. Diciamo che a me piace molto. È vero che in alcuni momenti diventa una malattia, una vabbè malattia. Adesso fammelo dire a me se sono malato o no. Te lo dico io, tu sei il paziente, è una malattia, ma Pupo lo riconosce con grande disincanto. Senti, Enzo, siete due malati. Siamo due malati, ma che malati, dai, non dire stupidaggini, dai. Senti, ma tu c'è una cosa della tua malattia del sesso, eccetera, che non hai mai confessato a tua moglie, a Patricia? Dimmi una cosa che non hai mai confessato. Assolutamente, no, ce ne sono. Dimmene una, dai, dimmi una che non hai mai confessato. Allora, guarda, adesso veramente. Una che non hai mai confessato. Io mi sto mettendo in una bega pazzesca, perché con la promozione di questo album. Ti chiederanno qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Allora, ti dico, con te chiaramente non può, non, è difficile per me non rispondere a delle domande. Io rispondo sempre alle domande. Appunto. E questo è il grande problema. Ecco, qualcosa che non ho confessato, perché c'è stato un momento davvero molto, molto, un momento drammatico in cui diciamo, il demone aveva preso il sopravvento in maniera pazzesca e riguardava la masturbazione. Cioè? Proprio gli i metodi di masturbazione che erano al limite, e quindi lì mi sono dovuto fermare a un certo punto. Cioè, che vuol dire? Spiegami, perché eri arrivato fino a che punto? Scusa. Non posso, sono cose. Ma dimmene una per farmi capire. No, ho capito, che hai fatto? Ho capito. Ti masturbavi con che cosa? Scusa. Beh, ci sono cose che non, i bambini troppo. Si tappino le bocche, Eri arrivato a masturbarti con che cosa? Con degli oggetti, con delle cose? Non lo so, ma non capisco se no. Esattamente. No, non capisco. Con che? Spiegami. No, non posso andare oltre, Giuseppe. Non lo so, allora, cioè, hai sperimentato tecniche di masturbazione impensabili. Cioè, no, diciamo fantasiose. Fantasiose. Cioè, ma quante volte al giorno lo facevi? Per curiosità. Così. Quando poi sei arrivato a quante volte al giorno? Ora non lo so, ma insomma. 5-6? No, di più no. Però allo stremo delle forze. Allo stremo delle forze. Ma qualche volta ti sei guardato nello specchio e dici: mi faccio schifo? No, sì, molto. Spesso. Quasi spesso sempre. Soprattutto quando una volta, mentre ebbi un incidente stradale all'area di servizio di Modena. Sì. E con la macchina sono entrato dentro praticamente l'area di servizio, frantumando vetrine, bottiglie e tutto, perché mi è scivolato il piede dal freno all'acceleratore. Perché e mentre ti stavi masturbando in macchina? No, mentre aspettavamo la polizia, io sono entrato dentro l'edicola che era accanto all'area servizio, e in un momento di compulsività, probabilmente scatenato anche dal fatto, da quello che mi era capitato, ho praticamente, meno male consenziente, ma ho fatto sesso con la ragazza che vendeva i giornali, che non sapevo chi era, ma scusa, non ho capito, ma consenziente, questo, ma ci mancherebbe altro. Dopo l'incidente, mentre aspettavo la polizia, la polizia poi mi cercava, e sono arrivato dopo un'ora e mezzo. Siamo alla follia assoluta. No, siamo al top assoluto, scusa. No, questa è la verità. È la cosa più straordinaria che ho mai sentito. Scusami Pupo, perché qui in questa radio, in questa trasmissione, fanno passare per normalità, il signor Cruciani fa passare per normalità delle cose. Ma non è normale. Ma non è lui, lui stesso sta dicendo che non è normale. No, perché Cruciani invece sosterrà tra poco che è normalissimo. Vedrai, perché per lui è così. Per lui è tutto normale. Hai fatto un incidente, hai spaccato. Allora, il mio praticamente road manager che viaggiava con me aspettava la polizia. Io nel frattempo mi sono dileguato, sono entrato dentro l'edicola, sono stato un'ora e mezzo, ho fatto sesso con la ragazza, mi sono sfogato e quando sono tornato tutti mi cercavano dove è andato, dove è sparito, e lei, la ragazza, lì per lì chiaramente ha detto: no, ma cosa fai Pupo, ma perché? E in quei momenti la compulsività e alla fine c'è stata, la cosa incredibile è che c'è stata, è al limite della legalità addirittura, perché poi quando succedono queste cose, quando hai questo tipo di impulsi di proprio ma qualcuno ha minacciato di denunciarti qualche volta? Sì, è capitato, sì. E ti hanno anche denunciato? No, mai. No. Però c'era la possibilità, perché tu insistevi assolutamente. E con non leggevi i giornali, però, anche in quel contesto? No, le dico la roba. Ma non ho capito, ma sei mai andato con minorenni? Per carità, odio. Odi, Odio la a parte la pedofilia, che non è che con minorenni e tutto. Chiaramente con minorenni attenzione. In che senso? Perché io ho avuto una fidanzata ufficiale, per cui ho lasciato mia moglie, che era minorenne. Attenzione, che era una ragazza consenziente, aveva 17 anni, quanto aveva? Esatto, 17 anni aveva, ma ti parlo degli anni 80, ecco, io avevo 22 anni. All'epoca hai lasciato tua moglie per questo. Esattamente. Parenzo che è caduto. Caduto Parenzo. Ma di fronte alla 17enne Parenzo. Ma la cosa che ti piace più di fare nel sesso qual è? ancora oggi? La cosa, che, la cosa di cui sei appassionato di più. Ah, ma che bello parlare con te alla radio. Dimmi. Ma come godi, eh? Dimmi che cosa ti piace. No, userò un termine che capiranno solamente gli addetti ai lavori. Il cunnilingus. Il cunnilingus è la cosa che ancora oggi ti piace di fare di più. Ma lo sai perché te lo chiedo? Perché te lo chiedo? Perché Trump recentemente in un'intervista, anzi qualche tempo fa, quando non era candidato, disse che lui per esempio non impazzisce per il sesso orale. Che è una cosa incredibile, ma Trump è strano, Vito, ti piace Parrucchino. Trump? Ma a me piace, guarda, i politici sono tutti molto porno, quindi... Cioè, in che vuol dire porno? Beh, sono tutti, cioè, i politici hanno una reputazione porno, dimmi un politico o una politica che insomma bene o male è, cioè, può, sono tutti osceni, può essere se stesso, ecco, cioè dimmi se uno andasse a dire veramente chi è, perché tutti non hanno mai sbagliato, tutti non hanno mai fatto niente, sì, tutti sono puliti, si contraddicono, sono... invece continuamente. Più porno di questo non c'è sincerità, hai capito? E quindi che cosa ma insomma dire? Trump lo voteresti in America o no? Ma io non lo voterei perché non è che lo, perché proprio non mi interessa votare nessuno, ecco. Allora facciamo un gioco, tra i politici italiani chi è porno e chi è amore? Questo è buono. Passiamo a Carfagna, ti ispira porno o amore la Carfagna? Ma guarda, allora ripeto, premesso quello che ho già detto, che tutti i politici per la reputazione che hanno, che hanno messo tutti porno, ecco, sì, perché per forza. Però andiamo su alcuni esempio, la Santanchè è meno porno della Boldrini, secondo me, cioè? Cioè perché è più, forse più vera, più genuina, è meno rigida, più aperta, capito? Quindi leggermente forse è più, fra virgolette, attaccata ad un ideale, capito? Ma non lo so, cioè, ti piace più la Santanchè della Boldrini? No, non ho detto questo, ho detto che semplicemente è per il concetto che io senti di ma la Boschi ti fa sesso o no? La Boschi no, perché troppo giovane per me, assolutamente non mi interessa, però mi piace molto, è una ragazza, oltretutto è una mia vicina di casa, sì, lo so, e poi mi è piaciuto molto. Che cos'è che ti piace? Mi per me è di una banalità pazzesca. Come? Ma no, mi piace la persona, mi piace una persona di che ha l'età di più giovane della mia figlia più grande, che fra l'altro oggi compie gli anni, gli faccio anche gli auguri a Ilaria che compie 49 anni. Facciamo, vabbè, gli auguri a Ilaria. Va bene, io trovo straordinario che una ragazza a quell'età sia arrivata a quel livello, faccio già il ministro, trovo che sia una persona che sicuramente avrà una lunga carriera davanti e di però non ti di fa sesso, non ti fa no sesso. Assolutamente no, assolutamente. Ti hanno mai chiesto di fare un film porno? No, assolutamente mai, no. Non lo faresti mai? No. Ma io penso ormai non c'ho, avresti non c'ho, le misure adatte? Sì, penso di sì, quello che sì. Sei oltre i 20? No, oltremente non esagerare, che ne so, tra i 15 e i 20, 17, quanto misuri? Dai, hanno misurato, beh, i piselli, insomma, a tutti, misuriamo il pisello pure a te. Io sono sproporzionato, ecco, quello sì. Cioè sei basso e in realtà dunque, sono sproporzionato. 20, guarda. 18, 17, 20, quanto ma è? Ma butta lì una misura, che te frega. Ma no, ma l'avrai già sperimentato, qualcuno l'avrà misurato. No, io mi sono sempre misurato così a occhio. Tra i 15 e i 20? Esatto. Possiamo dire tra i 15 e i 20? Diciamo di sì. Che c'è, Davide, dimmi, che c'è? Che no, c'è? Siccome domani dovrei essere in quella postazione, non vorrei che facesse delle porcherie durante la trasmissione. Guarda, domani mi devo sedere lì in quella postazione. No, le potrei fare solo se ci fossi falle, tu. Falle, così domani non se ne accorge. Falle. Senti, ma secondo te esiste la famiglia tradizionale? Ma secondo me la famiglia tradizionale... Te lo chiedo a te. Ma esiste, sicuramente. Tu saresti scomunicato da cioè, la Chiesa ti potrebbe scomunicare, sei proprio l'emblema del diavolo. Non sono interessato a questo, alla scomunica. Non te ne frega niente. Perché io credo, ho dei valori... Ma i preservativi, quanto li hai usati tu? Poco, pochissimo. Poco. Quasi mai. Ma non hai avuto paura di beccarti qualcosa? No, non ho mai avuto paura, anche perché ripeto, cioè, i giovani non devono prendere esempio da te, cioè, su... No, devono usare preservativi. Appunto, prendete esempio da me che l'ho usato pochissimo. Ma nell'edicola l'avrai usato? No, ma figurati nell'edicola là con quella. Ma come fai? Al volo ma lì. Allora, l'uso del preservativo poi è una chiamiamola una cultura che ha radici più moderne, diciamo più recenti. Prima, all'epoca nostra, lo sai, insomma, non si usava perché c'era meno paura delle, certo, malattie, dei contagi, delle AIDS. Dimmi un'altra cosa, a parte che la Bignardi, che è uno dei tuoi sogni, è diventato direttore di Rai 3. La Bignardi è una mia passione. Direttore di Rai 3, vabbè, adesso vediamo che si può fare là. Vediamo che si può fare, però vorrei parlare in conclusione della signora D'Urso. E preparati magari a intonarci un'altra canzone che non sia quella come conclusione. Allora, la signora D'Urso. Sì. Allora, la questione è molto semplice. Abbiamo già detto, tu hai vinto una causa, sì, hai incassato anche, non so se l'hai già incassato. No, abbia pagato le spese. Ha pagato tutto. le ha pagate tutto, quelle tutto già. Lei sì, si è pagato tutto. Ma è vero che c'è una riconciliazione in corso? Sì, è vero, ma c'è già stata, perché in fondo io non ho mai litigato con lei, che quando lei prese questa iniziativa contro di me, io la chiamai, poi lei si fece negare da un certo punto in poi. Beh, per cui non c'è, è una vita che non ci parli in realtà. Che non ci parlo sono tanti anni, sì. Adesso penso che andrò ospite da lei, perché hai visto come diventiamo noi. Oh, ma questa è una notizia. Allora andrai ospite dalla Duzzo. Sì, quando promozioniamo i dischi, poi diventiamo delle mignotte pazzesche, andiamo ovunque, capito? Allora io sono una mignotta, lo sai. Però questo qua è interessante. Cioè, si può annunciare che tu andrai molto probabilmente dalla Duzzo ospite del programma. Dunque ci sarà questa grande riconciliazione. Riconciliazione, diciamo. E anche un bacio, magari la vorrei baciare. Anche no? Un bacio, e non le chiederò. E non le chiederò e non mi chiederà niente sulla nostra, sulla storia di noi due, questa canzone che raccontava. Vabbè, ma che allora, raccontava, ma allora, che vai, allora che ce vai a fare? Se no, non mi ha raccontato le storie, diciamo. Vabbè, io beh, tu che ogni tanto la senti, ma ancora è valida. Beh, direi che la Duzzo è valida perché fa parte di quelle donne che io, anche sessualmente, ancora, vivo e mi attraggono molto. Quello sì, ti attrae ancora molto quando la vedi. Molto, ti attrae ancora molto. Comunque, non parlerete di questa cosa. Grande riconciliazione, andrai pomeriggio o la domenica? Quando andrai? Non lo so. La domenica. Sì, grande domenica. Presenza. Quando ci vai? Grazie. Già si sa una data, no? Ma io guarda, penso che andrò, credo il 17 di aprile, perché io ho un calendario pazzesco di concerti, siamo di mignotte, promozione. Siamo mignotte. Esatto, perché poi sarò domenica. Posso dire che dove sarò domenica? Puoi dire quello che vuoi. Allora, domenica sarò proprio in anteprima, presenterò questa, a parte l'anteprima tua alla radio, che era dove doveroso. Dove vai domenica? Vado all'Arena da Massimo Giletti, dove presenterò e canterò in anteprima Nei pensieri miei, che è un'altra canzone fammela, di questo fammela, disco. Fammela un po', com'è che fa? Com'è che fa? No, quella no. Dai, fammene un'altra. Facciamo, te le faccio un'altra per sentire. Ma ricordiamo che poi l'11 devi essere al Nazionale con me a teatro. Sì, fai un giro di 7 teatri. Vai. Sì, vai. Esatto. Come fai? Ti faccio questa. Ci sei? A volte nel silenzio di notte io provo a immaginare noi due. Sto là sognando ad occhi aperti, unendo il prima, il presente e il poi. Perché mi lasci sempre da solo? Perché non stai più tempo accanto a me? Mi fa soffrire stare da solo. Lo so che io non sono il padrone e che tu sei l'unica cura per me. Grande Enzo Chinazzi con noi, grandissimo. Grazie. Ciao Enzo, a presto. Ciao, grazie. Ti saluto. Ciao. Nel video ci sarai tu nudo, seduto su una tazza del cesso. E anche in la stanza da letto. Aspetta, questa è la mia idea. Non scherziamo. Come no? No, nudo, semi nudo, tazza del cesso, letto, grande cameo di F-Ball che ti bacia mentre si alza da letto con tu distrutto dopo le porcherie della notte, dopo tutte le porcherie della notte, e poi scena finale col volto delle tue donne che ti guardano, che ti sei riconciliato con la vita. Un abbraccio, ciao. Sapevo che eri un pazzo. Ciao. Cruciani, sei il numero uno. Anche io uscirei a cena con te. La Zanzara. Allora ragazzi, prima del traffico, tornando, voglio ancora chiedere a Pupu una cosa però, poi lo lascio libero, che è questa. Ma secondo te un bambino può crescere in una famiglia omosessuale con due uomini accanto? Dimmi la verità. Secondo me sì, un bambino può crescere, questo è un discorso lungo, ma secondo me non può essere dato un utero in affitto. Ma un bambino... Cioè sei contrario all'utero in affitto? Sì, cioè alla costruzione di un bambino? All'adozione di un bambino. Cioè un bambino può crescere senza problemi anche tra due uomini, tra due donne, tra due lesbiche, eccetera? Assolutamente sì, per me sì. Tra due lesbiche, bellissimo. Sì, per me sì. Bello due lesbiche, vedere due lesbiche. Ecco il demone, Perché, perché lì siamo alla pratica preferita di cui prima abbiamo parlato, e lì chiaramente accade raggiunge quello, non è che può accadere insomma naturalmente altro. Ciao, presto, ciao. Ciao Giuseppe. Ragazzi, traffico, torniamo tra poco, ciao. Cruciani, più ti ascolto e più ti amo. Traffico. La Zanzara. Allora ragazzi, andiamo subito con gli ascoltatori, eh. Peppino, provincia di Milano. Peppino, provincia di Milano, vai Peppino. Sì, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Volevo soltanto dire che Berlusconi ha perso il cervello. Io mi taglierei le palle di quanti voti gli ho dato per quella frase sui Rom? Sì, ma questo qua è, non è più normale, non è più normale. Amico mio, adesso, normale o non normale, purtroppo... La ruspa, queste sono una palla al piede per la società. Non lo volete capire, non lo vogliono capire. Che vuol dire una palla al piede per la società, dimmi? Ma questi non lavorano, rubano, io li vedo tutti i giorni. Aspetta che non si sente una mazza, perché è Parenzo o l'ascoltatore che non si sente? Cioè l'ascoltatore, che è successo? Dove stai, Peppino? Io sono in un bar, ne vedo tutti i giorni, questi qua sono... Rubano, cioè tu stai dicendo quello che ha detto Berlusconi sui Rom ti porta a non votarlo più? No, non lo voto più. Vabbè, non si sente una mazza, ho capito. Carlo da Bergamo, vai. Giusto, io volevo parlare dei Rom. Sì, sì. Ecco, niente, io sono praticamente leghista e mia moglie è rumena. Sì. Pazzi con la Romania abbiano male da 8 anni. E leghista con moglie rumena, bene. È facile, perché queste sfattiamo i la grande comuni. Integrazione lombarda. I luoghi comuni di Parenzo. Capito, Parenzo? Leghista con moglie rumena. Prevedono che le brave persone sono dappertutto. Infatti io la mia premessa sui Rom è proprio questa, che i Rom non sono tutti così, ma troppi sono così, e questo è il problema. Quando su 100 persone 95 hanno un determinato stile di vita, non si possono integrare con gli altri. Io ti dico, nella zona di Costanza, vabbè, di dove è mia moglie, praticamente loro hanno costruito le loro case per i fatti loro e vivono tra di loro, cioè loro non accettano l'integrazione, e questo dura dei tempi di Vlad Tepes terzo. Vabbè, ma allora non ho capito, che vuoi dire con questo? Che non vogliono integrarsi? È proprio quello il problema. Amico mio, ma diglielo a Berlusconi che vuole costruire le cittadelle dei Rom, quartiere Rom. Io l'altro giorno ho fatto un post su Facebook dove gli ho detto che praticamente con l'ultimo neurone che gli è rimasto sta sudando a tirare fuori queste cose qua, perché è irriconoscibile, dice delle cose che sono delle assurdità. Cioè ha detto cittadelle, quartieri Rom, giusto Parenzo, poteva essere d'accordo. Ragazzi miei, ma se fino a oggi quella fottuta ruspa non ha funzionato, se no veramente non è stata voti. Non è stata ancora messa in pratica. Ma hanno governato, ma chi ha governato Milano negli scorsi anni prima di Pisapia? Chi l'ha governata? Certo. La Lombardia, chi l'ha governata? Adesso lo dice Salvini. Formigoni e poi Baroni. No, ma mio amico Formigoni è una parola grossa. Quel personaggio lì, Gio Formaggio, ma che cazzo, ma ha risolto qualche cosa? Allora, ragazzi, ma le cittadelle Rom, i quartieri Rom e il lavoro pubblico ai Rom, vicino a Mestre. Quando Cacciari era sindaco, hanno fatto la stessa cosa, cioè hanno costruito una piccola cittadina Sinti con delle piccole capanne. Ma quale cittadina Sinti? Ma basta, ma cercassero una casa come tutti, dai, su. Allora continuate a giocare come fa Salvini con il fuoco, con gli effetti speciali, con le ruspe, e non risolverete il problema. Sì, vabbè, invece risolviamo. Per eccitare gli animi. Ma che eccitare questi? Gli animi? Vabbè. Ciao Carlo, ciao. Allora ragazzi, tra i 5 Stelle c'è un piccolo caso, insomma, al di là della candidatura a Napoli di un tizio che è lombardo, cioè sono riusciti, pur avendo metà del partito, dei dirigenti del partito, dei capi del partito napoletani, i 5 Stelle sono riusciti a Napoli a candidare prendendo pochissimi voti sui 5.000 iscritti, perché hanno votato in pochi, sempre col web. Sono riusciti a candidare un signore che è Brianzolo, cioè di Monza, un ingegnere normale, Brianzolo. Normale. Che da 10 anni a Napoli, attento, che si chiama Brambilla, cioè Brambilla, ma magari è una cosa originale e riescono a vincere, non lo so, ho i miei dubbi. Brambilla, Brianzolo, ingegnere, tifoso della Juventus, nell'anno in cui Juventus e Napoli si giocano lo scudetto. Cioè tu ti rendi conto, no? Cioè il combinato disposto di queste cose dove può portare. Cioè, questo, quando seleziona la classe dirigente così. Signor Brambilla, Brianzolo di Monza, ingegnere, per carità, persona sicuramente per bene, io non sto discutendo di nulla, tifoso della Juventus, e in più si chiama Brambilla. Di Monza, dei 10 anni a Napoli, perché ha sposato una napoletana, ragazzi miei, su. Ma ci vuole un minimo anche di cose. A parte questa cosa qua, uno dei 5 Stelle si è iscritto al PD, un ex del Movimento 5 Stelle, si chiama Barbanti ed è, credo, calabrese, se non sbaglio, signor Barbanti. Sentite cosa dice di Renzi. che dice che è un rivoluzionario. Renzi, questo è oggettivo, sta facendo comunque degli atti anche di forti cambiamenti. Rivoluzionario, detto lei. Rivoluzionario, assolutamente. Renzi, un vero rivoluzionario. Beh, non si può dire che non stia cercando di fare qualcosa. Allora, Parenzo, io proverei a chiamarlo perché non capisco perché non si dimette. Cioè, secondo me, se è stato eletto con Grillo, passa al PD, dice che Renzi è rivoluzionario, secondo me Barbante la prima cosa che dovrebbe fare è dimettersi e poi si vede, si iscrive al PD, magari no, salta un turno. In alcuni paesi si salta un turno se passi da un gruppo parlamentare all'altro, è scritto nelle leggi, eh? È scritto nelle leggi. Pronto? Barbanti? Sì. Sono Cruciani, ciao, come stai? Ciao, tutto a posto. Senti, voglio chiederti una cosa, ma perché tu sei entrato in Parlamento contro il Partito Democratico in pratica, no? O comunque con una posizione chiara contro il PD, adesso sei passato al PD, perché non ti dimetti? Io sono entrato con un Movimento 5 Stelle che era diverso da quello che si è rivelato essere dopo. In che senso, scusa? Nel senso che il Movimento 5 Stelle ha abdicato un po' a tutti i suoi valori, a tutti quelli che erano originariamente i suoi valori. Cioè, cosa è diventato adesso? Ma è diventato un partito che non è più qui per votare quello che era giusto e quello che era sbagliato non votarlo. Era un movimento, quello mio, che dava e chiedeva trasparenza. E invece adesso? Era un movimento, è assolutamente tutto quanto scuro. E perché non ti dimetti allora? Perché è il movimento che ha tradito quello che è stato il suo mandato. Dimettiamoci tutti. Ho capito, ma è facile però dire così, dimettiamoci tutti. Tu dici, si devono dimettere pure gli altri. Hai capito, gli altri non hanno cambiato gruppo però. Hanno tradito quello che era stato il vero mandato del movimento. Ma poi scusa, come fai a dire che Renzi è rivoluzionario? Perché è rivoluzionario? No, allora ascoltiamo, la questione rivoluzionario è diversa, è innegabile che Renzi abbia fatto diverse riforme, mentre invece purtroppo Beppe e gli altri non hanno fatto nulla. Una rivoluzione che è soltanto a parole. Torno su un punto, tu sei entrato in Parlamento con alcune regole e adesso stai tradendo queste regole qui, dovresti dimetterti e poi aspettare le prossime elezioni. Questo non capisco. Allora, scusami, perché lo fai? Per la poltrona? Tornando, per i soldi? Per che cosa? No, assolutamente, non è per quello. Non è per quello, ma vabbè, ovviamente sui soldi assolutamente. Cioè lo stipendio lo prenderai intero adesso? Ma non si prende nessuno intero, perché comunque, a parte che noi già da prima, in Alternativa Libera, anche poi usciti dal gruppo misto, comunque ci decurtavamo lo stipendio. Ora quello che è il mio stipendio andrà in parte a quello che potrà essere, non lo so, azioni sul territorio o comunque... per far lavorare ragazzi. Cioè tu continuerai a prendere 2.500 euro? No, io prenderò tutto lo stipendio che c'è per quello che è e devolverò poi questa parte ovviamente per fare le azioni sul territorio. Ma questo che vuol dire? Farai politica? Anche... Farai politica allora? Cioè prenderai tutto lo stipendio intero? Se per fare politica si intende qualcosa che possa mettere a disposizione del territorio strumenti per lavorare per i bene dei cittadini, ti rispondo di sì, così come fanno i miei ex colleghi che, come puoi vedere dal sito, ormai non restituiscono più nulla. Ah, loro già non restituiscono più nulla, tu dici? No, vai sul sito, ti rendi conto, che loro non restituiscono più niente, ma non è una nota di biasimo. Beh no, avevano detto un'altra cosa prima, Barbara. Ma non è una nota di biasimo nei loro confronti, hanno semplicemente visto e capito che se uno vuole fare politica per bene ci vogliono i soldi. C'è bisogno di spendere un po' di soldi. Loro hanno sempre detto noi prendiamo 2005. E non hanno mai preso il 2005, te lo dico perché c'ero dentro. Non per, per un periodo sarà stato così, poi sarà andata a scemare questa cosa. Ma no, ti dico di no. Ti ringrazio, ciao. Zanzara, Uakbar, Zanzara, Uakbar. La Zanzara. Parenzo, io ho 5 figli a 46 anni, quindi non sei nulla in confronto al mio Seminator. Sono qui sotto la neve, ho appena battuto con la macchina, sto aspettando il carattrezzi, nel punto in cui sono... Non prende Radio 24. Sono una bestia. sono una bestia. Andate a fanculo tutti. La Meloni è l'emblema della nostra politica. Prima dice di non potersi candidare perché è incinta. Poi, con quattro parole di Bertolaso, gli vomita addosso di tutto. Ma va Laura, va! Chi è? Sono l'anima degli mortacci tua! Comunque la Littizzetto sarà anche un cesso, eh? Vabbè, diciamo che non è una gran bellezza. Ma ha dei piedini che sono stupendi. Forse i piedi più belli che abbia mai visto io, infatti li ha mostrati spesso a Che Tempo Che Fa da Fazio. Tu Cruciani, che sei anche tu un cultore di questa parte del corpo femminile, dagli un'occhiata, poi sappimi dire. Ma la santa anche che discetta delle bruttezze altrui, quando torna a casa la sera apre la porta, trovano sferato Sant'Anché. Ragazzi, stanno ricominciando con gli agnelli. Stanno ricominciando con questa enorme rottura di coglione degli agnelli. Cioè, per la Pasqua, certo. Ci fanno la predica in tutti i modi per non consumare gli agnelli. No, in realtà io l'agnello, guarda, adesso non vorrei che si arrabbiassero con gli animalisti, ma io l'agnello è una delle cose che preferisco al mondo, guarda. Sì, ma dillo più forte che non si sente una mazza, scusami. No, l'agnello è la cosa che io proprio, le costolette d'agnello, ad esempio, sì, è uno dei miei piatti proprio preferiti. Oh, bene, Parenzo, due punti, uno dei miei piatti preferiti, sì, sono le costolette d'agnello. Ma non è che non ho detto che ho frequentato Torina. Assolutamente. È brusca. Sei praticamente della stessa scuola di moltissimi italiani, per fortuna. Hai questa cosa in comune. L'agnello arrosto, le costolette d'agnello sono uno dei miei piatti preferiti. Allora, purtroppo c'è gente addirittura che manda in giro dei necrologi, come se fossero, sai, le locandine che vengono pubblicate dei morti, con un agnello nato ucciso, buona Pasqua, sgozzato a solo un mese di vita dopo essere stato strappato alla madre, imbottito di farmaci, ammassato su camion senza acqua né cibo, appeso per una zampa e lasciato dissanguare, per finire sulla tavola di persone crudeli. Cioè, siamo tutti, tu compreso naturalmente, persone crudeli. Mi dispiace, persone non mi ero mai posto il problema, non mi pare. Un altro che pare sia anche conosciuto, un tizio, un filosofo che si chiama Leonardo Caffo, ogni anno un massacro. Cioè, questi parlano di massacri come se fosse il massacro di Sabra e Shatila, come se fosse il massacro di Srebrenica, come se fossero i grandi massacri della storia dell'umanità, di cui è costellata la storia dell'umanità. Cioè, utilizzano la parola massacro, che di solito si utilizza per grandi crimini che vengono perpetrati nel mondo, per parlare degli agnelli e della Pasqua. Cioè, tu capisci la follia. Cioè, secondo loro siamo tutti complici di un massacro, e questa è la cosa che mi fa impazzire. Senti quest'altro: la Pasqua sarà davvero buona solo se si elimina la crudele usanza di ammazzare i giovani agnellini. A un mese di vita vengono strappati alle madri, costretti a lunghi viaggi su tir strapieni per arrivare in un orrendo macello in cui, terrorizzati, vengono storditi, appesi a un gancio per una zampa, sgozzati e lasciati dissanguare. Tutto questo solo perché a molti piace mangiarli. Non potrebbe essere un motivo più futile per sottoporre questi cuccioli a tanta sofferenza e alla morte. Non c'è giustificazione per uccidere loro né alcun altro animale. Tutti sono esseri senzienti, esattamente come i nostri cani e i gatti di casa. Curatevi! Mangerò agnello a più non posso, fino a quando mi deve uscire l'agnello dalla bocca, cioè mi deve uscire pure dalle orecchie fuori l'agnello. No, ma perché? Sì, le zampe dell'agnello fuori. Basta, mangerò apposta l'agnello che mi esce fuori dalla bocca. Tullio Solenghi sugli agnelli, che dice Tullio Solenghi, signor Tullio Solenghi. Una delle altre aberrazioni che dicevamo era quella di far vedere, far giocare il bimbo con l'agnellino quando magari si fa la pubblicità di un capo di lana, eccetera, e poi lo stesso agnellino viene squartato per farlo diventare il capretto di Pasqua, l'abbacchio pasquale, e quindi faccio una foto con un agnellino. Viva l'agnello, viva l'agnello, la scottadito e altro ancora, e altro ancora. Adelchi Rimini, vai Adelchi. Ciao, ciao Giuseppe. Dimmi, dimmi, caro, dimmi. Volevo parlare a proposito del caso Pantani, che qualsiasi verità venga fuori dalle carte processuali, tanto per il tifoso fanatico, sì, Pantani sarà sempre un dio in terra, qualsiasi cosa venga fuori. Ah, non c'è dubbio, guarda, non c'è dubbio. L'hanno voluto fottere. Sì, vabbè, il sistema, la camorra, l'organizzazione, sì, gli invidiosi, eccetera, eccetera. Guardavo è morto in una camera d'albergo? No, per carità, con tutto il rispetto, è morto in una camera d'albergo. Grande complotto per ucciderlo, non è che si è ammazzato da solo perché il poveraccio aveva un problema, no, niente. Ma purtroppo il tifoso fanatico è così. Ti ricordi Valentino Rossi quando ha dato il calcio a Marquez, no? Una cosa lampante, tutti l'hanno visto. Io ho sentito e ho letto tante persone dire che è stato Marquez che ha dato una testata nel ginocchio di Valentino Rossi. Lo so, è così. Il tifoso fanatico è questo, non c'è niente da ciao, fare. Ciao Adelchi, ciao. Allora, caro Davide, mentre tu sei là a Trento per l'alloro di tuo fratello... Sì, che è finita però. Che è finita, in Italia dilaga la revagination. Sai che cos'è la revagination? Cioè, no, praticamente... Posso arrivarci con la logica. Diciamo. Con la logica, praticamente c'è una tecnica... Attenzione, perché l'orario effettivamente è quello degli approfondimenti. Esatto. Dei grandi approfondimenti, delle grandi inchieste della Zanzara. Una donna over 40 su 3 desidera riconquistare la propria intimità grazie al laser. Cioè, in sostanza, si ritocca la patata, la vagina. E abbiamo un grande esperto di questa cosa, un chirurgo. Cosa vuol dire se la ritocca? Adesso ci facciamo spiegare da un esperto della materia. Scusami, ti anticipavo troppo. No, ma siamo alla, mica siamo dei peracottari, ci affidiamo ad un esperto che è il dottor Paolo Mezzana, che è chirurgo plastico, che saluta e abbraccio. Buonasera. Grande chirurgo, senta. Allora, ma chi è quello? Il revagination mi piace. Revagination. Che cos'è questo? È il Brunelleschi della vagina. Chi è questo? Praticamente sì, il Brunelleschi della vagina, esatto. In realtà avevamo detto la rinfrescata della patata. Com'era? La rinfrescata della patata. Beh, molto bene. Ma scusi, ma davvero? Tante donne tra i 45 e i 60, se non sbaglio. Sì. Beh, diciamo che sicuramente la richiesta sta aumentando. In Italia c'è un po' il tabù di questa problematica, però la necessità di avere una vita sessuale normale senza disagi, insomma, le spinge poi a fare trattamenti che sono ormai in piena sicurezza e che... Scusi, ma rinfrescata che vuol dire rinfrescata? È una rinfrescata perché in realtà, come sappiamo... È un tiraggio praticamente. Con il tempo... Non è un tiraggio, è uno stimolare... La mucosa, cioè il tessuto interno della vagina, a produrre nuovo collagene e quindi si ritrova elasticità e si ritrova lubrificazione. Perché in realtà dopo una certa età queste cose mancano. Queste cose vanno un po' a mancare. Vanno un po' a mancare. Come i maschietti vengono a mancare un po' gli ormoni, quindi spesso la pillolina di Viagra serve per... Quindi tra Viagra e laser endovaginale, insomma, siamo tutti più felici. Siamo tutti più felici. Matrimonio. Senti Paolo, diamoci da tu, ma tu ricostruisci proprio, cioè come intervieni? Col bisturi proprio? Cioè tu c'è una ricostruzione proprio della vagina? Allora, diciamo che si possono fare molti interventi a livello genitale e forse l'aspetto più interessante è che in questo caso l'estetica e la funzione corrispondono. Quindi una bella patata funziona anche bene. Quindi sostanzialmente no, ma non questo riesco è il messaggio a capire. Scusi professore, non riesco a capire per limiti miei in che cosa consisterebbe il rinfrescamento. Il rassodamento, diciamo. Una specie di rassodamento, che cos'è? La stimolazione, chiamiamola così, la stimolazione endovaginale. E c'è un sistema laser, praticamente, che sono tantissimi anni che si usa a livello cutaneo, quindi per il ringiovanimento cutaneo del viso, che fa lo stesso identico lavoro all'interno del canale vaginale. Quindi c'è un introduttore e un manipolo che porta la luce laser all'interno della vagina e stimola i tessuti a produrre nuovo laser. Ma quanto costa questa operazione? Ma non sono interventi costosi, si fa una seduta al mese, si ripete 3 volte e poi si fa un richiamo ogni 6 mesi o massimo una volta l'anno. E i costi mediamente nei vari centri variano tra i 250 e i 400 euro a seduta. Cioè, praticamente tu dici, Paolo, che si può trattare il viso e la patata come si tratta il viso? Noi normalmente ormai trattiamo viso e patata contemporaneamente, quindi le pazienti che fanno la patata fanno anche il ringiovanimento del viso. Hai capito, Parenzo? Cioè, il laser è lo stesso. C'è ringiovanimento del viso insieme a quell'altro. La cosa pazzesca. Cioè, le rughe in viso possono essere trattate. Cioè, le rughe con lo stesso laser. Con lo stesso laser. Non ho capito a cosa serve, ma non importa, perché va benissimo tutto. No, serve come dire. Serve per rughe in viso a rendere più elastico, immagino. Sia la pelle, ovviamente. Sia la pelle del viso che la pelle della mucosa endovaginale. Capito, Parenzo? Cioè, tecnicamente funziona meglio poi? Tecnicamente funziona benissimo, perché poi dopo che hanno fatto la prima seduta tornano tutte contente e vogliono fare la seconda. E come mai? Cioè, perché poi i mariti, i compagni, gli amanti sono contenti? Un beneficio. Assolutamente anche loro, perché aumentare la lubrificazione per una donna che non si lamenta più dei dolori durante il rapporto, dove percepiscono una maggiore elasticità, è piacevole anche per l'uomo. È un intervento mutuabile. Non è ancora mutuabile. Ma è gravissimo, gravissimo, questo è molto chiaramente grave. Ma la cambiamo vedo verso, fare l'appello. Ma la vedo difficile in Italia. È un ma po' difficile. Cambia tutto verso, ma in Italia è tutto difficile in questo momento. Che la medicina è presa un po' sotto gamba. È un grande slogan, però. Cambia verso, hashtag cambia vagina. Mi pare perfetto per la campagna elettorale. Scusi, mi sembra molto carino. Perché ecco, Parenzo, ogni tanto. No, assolutamente, perché le donne che non hanno la possibilità e hanno la figa secca, diciamo, e hanno... eccolo là, lui subito deve metterci in carica. No, è quella la secchezza, stavamo, no? Che cos'è? È la secchezza. Stiamo ragionando seriamente. No, ma io seriamente ragiono, rendo la cosa più comprensibile. In realtà questo è un grande problema per le donne. Quindi bisogna rispettare anche il fatto di poter per carità. No, ma è importante che la radio. Ma il pelo che ruolo ha? Diciamo il pelo oppure il pelo è una mutanda di protezione. Cioè è meglio il pelo. È meglio conservarlo. Io sì, sono di vecchia scuola. È meglio conservare una mutanda di protezione per che cosa? Perché i peli che sono i peli in quel punto esistono perché proteggono l'ingresso del canale vaginale, che è una cavità, dall'insulto di agenti esterni. Sì. Se non ci sono i peli, entra tutto più facilmente. E dunque, diciamo, invecchia di più. E quindi diciamo pure che potrebbe invecchiare di più. Peraltro scoprirla troppo poi impone questi interventi, perché a quel punto emergono i difetti. Ma c'è qualcuno che ti chiede di ricostruire l'imene, cioè di ritornare vergine? Bah, questa è la cosa più divertente, perché sembra un intervento richiesto, in realtà in Italia assolutamente non è un intervento che viene meno male, non c'è nessuna che gli viene in mente questi sono interventi che possono essere richiesti in altri paesi, ma magari per motivi religiosi, ma sicuramente in Italia no. Meno male. Questo tabù l'abbiamo superato, qua siamo evoluti. Siamo evoluti. La revagination, ragazzi, oggi c'è di tutto. Il mondo moderno è fatto così, è inutile. Arrendetevi, islamici, arrendetevi. E la medicina va avanti. Fondamentalisti, arrendetevi, questa è una grande oasi di libertà, si può parlare anche di revagination. Donne, sentite, ascoltate, questa è la vostra salvezza. Paolo Mezzana. Ti saluto, ciao, un abbraccio, ragazzi. Sì, revagination sono i diritti della donna. Vabbè, sì, bravo, i nuovi diritti della donna e anche il revagination. A domani, 18:30, ciao. Cruciani, ma va suca. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.